giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le industrie della regione lavorano per il passaggio da 4.0 a 5.0, lo afferma il presidente di Confindustria Alto Adriatico Agrusti, tracciando un bilancio del primo semestre. Innovazione e resilienza reggono l'urto dell'instabile situazione internazionale. Questo fine settimana di grande esodo estivo si prospetta il più trafficato di tutto il periodo a causa delle grandi partenze legate alla chiusura delle attività nella settimana di Ferragosto. Oggi e domenica traffico da bollino rosso in autostrada, domani bollino nero. Gran caldo in arrivo nei prossimi giorni. Dopo un fine settimana di bel tempo, da lunedì sono previsti fino a 38-39 gradi localmente in Friuli Venezia Giulia, a Trieste, anche oggi rilevati oltre e livelli oltre la soglia di guardia di ozono atmosferico. Sulla vendemmia 2024 aleggia un punto di domanda, previsioni difficili non solo in regione ma in tutta Italia per un andamento meteorologico a macchia di leopardo. A Trieste in via Rossetti taglio del nastro questa mattina per la nuova casa dedicata alle famiglie in situazione di fragilità sociale. Erogherà servizi a supporto della genitorialità ma anche per bambini e ragazzi. Localizzato nell'Adriatico un convoglio della Grande Guerra. Si tratta di quattro imbarcazioni rinvenute al largo di Grado, probabilmente affondate dopo la ritirata di Caporetto per non farle cadere nelle mani del nemico. Sport calcio, primo impegno ufficiale in Coppa Italia per l'Udinese che questo pomeriggio al Friuli ospita l'Avellino. Alle Olimpiadi oggi per la regione la volta di Antilai Sandrini, 26enne livornese residente ad Aviano, impegnata nella breakdance. Ancora buongiorno e ben ritrovati da Lorenzo Gerlinzoni e Francesca Vigori. L'industria regionale è dunque un sistema innovativo e resiliente che regge bene alla situazione geopolitica internazionale. È l'analisi di Confindustria Alto Adriatico. Sentiamo il presidente Michelangelo Agrusti. Ci stiamo preparando mettendo a terra tutta una serie di iniziative che a sostegno delle nostre imprese che peraltro hanno dimostrato di poter reggere l'impatto di una situazione geopolitica ed economica globale che non era affatto rassicurante. Due guerre, avevamo appena finito il Covid, due guerre in atto, mercati che si sono ristretti, sono spariti paesi come la Russia, è entrata in crisi la locomotiva dell'Europa considerata così, la Germania di cui noi siamo un'economia fortemente integrata e quindi abbiamo dovuto reagire a questo mantenendo le nostre capacità di esportazione. Noi esportiamo più del 60% delle cose che produciamo, non è diminuito questo tasso di esportazione, abbiamo cercato nuovi mercati, nuove opportunità e naturalmente non possiamo dire che tutto vada benissimo, ma se dobbiamo dire qualcosa di concreto, in questo momento non ci sono crisi aziendali in atto. Dal 2008 sono stati fatti investimenti importanti per mitigare la crisi economica, puntando sulla trasformazione digitale, creando anche realtà nuove come la Marine Interior della Fincantieri, che impiega 800 lavoratori tra dipendenti e quelli dell'indotto. Agrusti ha poi citato il polo tecnologico diventato centro di certificazione autorizzato dal MEF e tra le scelte strategiche anche la presidenza dell'Interporto di Bolzonello con l'ambizione di indirizzare il traffico dal porto alla rotaia. Tanta attenzione anche alla formazione, alla sicurezza e alla salute. Beh, la formazione è il nostro master, la nostra assemblea di settembre è un'assemblea tematica, viene intitolata Capitale Umano e metteremo a confronto i nostri sistemi formativi con quelli cinesi, indiani, tedeschi, statunitensi, israeliani e quindi tutto questo farà crescere anche la consapevolezza di poter incrociare le esperienze migliori e in qualche modo introitarle e portare dentro i nostri sistemi. Pordenone, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il terzo fine settimana di grande esodo estivo si prospetta il più trafficato, traffico da bollino rosso oggi sull'autostrada 4 in direzione Trieste. La situazione più critica al momento tra Sandona di Piave e lo svincolo per la A28 dove si registrano code. Traffico rallentato anche all'altezza del nodo di Palmanova e alla barriera del Lido. dell'Isert. Rallentamenti anche sulla A23 in direzione Tarvisio per un incidente tra lo svincolo di Gemono Osoppo e Carnia. Domani sarà la giornata più difficile, con traffico da bollino nero previsto su tutta la rete autostradale regionale, specie in direzione Trieste e Slovenia e Croazia. È stata modificata la data per la presentazione delle candidature relative al rinnovo degli organi di vertice delle autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, Trieste e Monfalcone, così come per tutte le altre autorità portuali. La scadenza, inizialmente fissata al 10 settembre, viene estesa al 30 settembre 2024. Le norme in vigore stabiliscono che il presidente dell'autorità portuale sia nominato dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa col presidente della regione, sentite le commissioni parlamentari, e che sia scelto fra cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale. Dopo la mareggiata d'autunno, la riviera di Barcola è ancora danneggiata. C'è un progetto esecutivo per la realizzazione di un intervento urgente di protezione civile per il ripristino della scogliera e della passeggiata. Sentiamo i dettagli. 8 mesi dopo le mareggiate che hanno colpito la costa da Viale Miramare al lungomare di Barcola fino al molo del Porto Vecchio di Trieste, il Comune annuncia il ripristino della scogliera sul lungomare Benedetto Croce. Con una spesa di 362.000 euro, l'assessore comunale Michele Babuder ha presentato in giunta il progetto esecutivo. È uno dei 6 interventi finanziati dalla Protezione Civile Regionale, presente in conferenza stampa l'assessore Riccardi, su 600 metri di costa che è stata erosa dopo le mareggiate. Saranno posizionate nuove scogliere per garantire il livello di protezione del lungomare fino a 80 centimetri in più di altezza. Il primo intervento sarà eseguito nel tratto di costa dove sono stati maggiori danni, nei pressi dei percorsi pedonali e delle aree verdi. I lavori, che inizieranno il mese prossimo, riguarderanno inizialmente 370 metri di costa, mentre i successivi lotti di completamento saranno realizzati non appena saranno reperiti altri fondi. Si stimano almeno 2 mesi e mezzo di lavori. Babuder. Stiamo continuando e terminando anche una serie di interventi sia nel breve periodo sia di lungo periodo per garantire la mitigazione dell'erosione costiera e ovviamente anche il rinforzo di una scogliera, quella del lungomare Benedetto Croce, a protezione delle opere che sono state già realizzate in questi primi mesi e ovviamente in funzione futura per evitarne un nuovo deturpamento. Silvano Barone, TGR Friuli Venezia Giulia. Stipendi fermi da 6 anni e precarietà sono alcuni dei problemi per i quali i lavoratori dell'industria turistica aderenti a Filcams CGL, Fisascat CISL e Will Tux Will scioperano oggi. A Trieste anche un presidio sotto la sede di Confindustria Alto Adriatico. A scioperare sono soprattutto gli addetti alle reception, al servizio in sala e nelle stanze di alberghi di 4 stelle superiori e dai tour operator, lavoratori e lavoratrici con contratti in aziende che appartengono generalmente a catene strutturate che fanno parte di Confindustria, uno sciopero che nella settimana pre-ferragostana ha coinvolto già l'Emilia Romagna e la Toscana dopo la rottura delle trattative con Federturismo e AICA sul rinnovo del contratto nazionale scaduto da 6 anni. Anni in cui, dopo il Covid, il turismo è in forte espansione e il non adeguamento della retribuzione all'inflazione in questi 6 anni significa anche un danno a livello pensionistico, specificano i regionali di Filcams, Fisascat e Will Tux, Mari Cabaio, Adriano Giacomazzi e Matteo Calabro. Ogni anno noi continuiamo ad ascoltare la solita frase dei datori di lavoro che faticano a reperire personale qualificato. Ora sarebbe importante dire, credo sia doveroso protestare, dire a gran voce che probabilmente il personale qualificato passa anche attraverso una buona retribuzione, un buon contratto. Succede che il lavoro precario è uno strumento che viene utilizzato perché si dà risposte a stagionalità e pertanto stagionalità prevede contratti a tempo determinato. Se non è precario in durata, ma si utilizza il part time, è precaria la parte economica. Comunque parliamo di lavoratori che non possono immaginare un futuro stabile a queste condizioni. All'ultimo tavolo, all'ultimo incontro, Confindustria è andata nella direzione opposta, quindi hanno chiesto più flessibilità, hanno chiesto reperibilità, hanno chiesto delle deroghe, anche un aumento dei numeri degli apprendistati. Intanto questa mattina alcuni balneari hanno aderito alla serrata di 2 ore degli stabilimenti indetta da SIP Confcommercio e FIBA Confesercenti per sensibilizzare il governo sulla regolamentazione delle concessioni. Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora vediamo i dati finanziari semestrali del gruppo Generali diffusi questa mattina. Risultato operativo in continuo aumento a 3,7 miliardi di euro, più 1,6%, principalmente grazie al contributo dei segmenti Vita e Asset Wealth Management. In forte crescita anche i premi lordi a quota 50,1 miliardi, più 20,4%. Estremamente positiva in particolare la raccolta netta Vita a oltre 5,1 miliardi di euro. L'utile netto normalizzato è di poco superiore ai 2 miliardi, mentre il netto del gruppo sale dello 0,8% a 29,2 miliardi. Ora l'inflazione nel mese di luglio 2024, la stima definitiva dell'indice dei prezzi al consumo per la collettività del comune di Trieste ha registrato un più 0,4% rispetto a giugno, inflazione congiunturale un più 1,7% rispetto a luglio 2023, tendenziale. Nel precedente mese di giugno 2024 la variazione congiunturale era più 0,2%, quella tendenziale più 1,6%. A Udine invece l'inflazione di luglio segna un più 0,7% rispetto al mese precedente e un più 1,4% anno su anno. Diamo ora uno sguardo al tempo. Il cielo è sereno su costa e pianura, poco nuvoloso in montagna. Le temperature registrate alle 11 a Trieste 29 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi. A Gorizia e Pordenone 30, a Udine 29, a Tolmezzo 26, a Forni di Sopra 24, a Sappada 23, a Tarvisio e a Piancavallo 21, sul Monte Zoncolan 17, sul Lussari 16, a Lignano e Grado 28, la temperatura del mare in entrambe le località è di 28 gradi. Cielo sereno oggi su pianura e costa, sulla zona montana nel pomeriggio poco nuvoloso con possibilità di qualche rovescio o temporale isolato, sulla costa soffierà brezza e per tutto il fine settimana è previsto bel tempo, poi dall'inizio della prossima settimana un'ondata di caldo con temperature che saliranno fino a 38-39 gradi, intanto a Trieste anche oggi superati i livelli di guardia di ozono, a Sugi invita a non fare lavori o attività fisica all'aria aperta nelle ore centrali della giornata. Ma ora sentiamo Livio Stefanuto dell'ARPA FVG. È arrivato l'anticiclone con aria molto mite, molto calda, anzi in quota e anche nei bassi strati, quindi il tempo sarà bello, stabile, cielo apparentemente sereno, soltanto qualche nube di formazione del pomeriggio sulla fascia alpina della nostra regione, ma senza particolari fenomeni. Temperature naturalmente in aumento, con valori che tra sabato e domenica potrebbero anche toccare i 36-37 gradi in pianura. Sulla costa invece venti di brezza del pomeriggio che tenderanno ad attenuare la sensazione di caldo, anche se però portando maggiore umidità dal mare, l'afa si farà sentire sulla costa soprattutto in serata e nella notte. L'anticiclone sembra persistere almeno fino a metà della prossima settimana, quindi il tempo rimarrà direi bello e stabile almeno fino a metà della settimana, con temperature in ulteriore aumento, non è escluso che localmente in pianura da martedì e mercoledì si possono anche toccare i 38, forse anche 39 gradi localmente. Il tempo rimane sempre soleggiato, sulla montagna potrebbe arrivare un po' di aria fresca in quota che potrebbe innescare qualche temporale sulle Dolomiti venete, che poi portata dal flusso delle correnti potrebbe interessare parzialmente anche qualche località della nostra regione con un po' di nuvolosità pomeridiana o serale. C'è una situazione di allerta sull'area di Trieste a causa di livelli di ozono sì, atmosferico? Sì, con il caldo arriva sempre anche l'ozono, abbiamo raggiunto e superato la prima soglia di concentrazione e questo potrebbe dare qualche effetto soprattutto per le persone più sensibili. Questa situazione permarrà così oggi e anche domani, poi domenica e lunedì potrebbe leggermente migliorare per poi forse di nuovo riaccentuarsi le giornate successive. Comunque su questo consigliamo di seguire gli aggiornamenti che vengono pubblicati con i dati sul sito dell'ARPA. Maturazione anticipata di qualche giorno, ma stime difficili su quantità e qualità. Sono le previsioni di Coldiretti sulla vendemmia 2024. Sulla vendemmia 2024 aleggia un grande punto di domanda. Previsioni difficili da fare non solo in regione ma in tutta Italia per un andamento meteorologico a macchia di leopardo. In Friuli Venezia Giulia si riparte da un 2023 che aveva fatto segnare un meno 27% nei volumi rispetto all'anno precedente, 1.600.000 ettolitri. Quest'anno dovrebbe andare meglio, anche se le previsioni non sono facili. Dove l'anno scorso ci sono stati forti grandinate, i problemi sui tralci feriti si ripercuotono anche sul 2024. Le ultime settimane, caratterizzate da alte temperature, hanno accelerato la maturazione dei grappoli che, segnala Coldiretti, risulta anticipata di qualche giorno rispetto alla media degli ultimi anni. Primavera e inizio estate caratterizzate invece da intense piogge, grosso lavoro dei vignaioli nella difesa antiperonosporica e qualche problema di fecondazione dei grappolini nel mese di giugno in alcune varietà che potrebbero presentare meno acini. Come indica Marco Malison, responsabile del servizio vitivinicoli di Coldiretti FVG, vediamo però che in alcune zone varietà come il Prosecco hanno un livello di produzione più che discreto e quindi in alcuni casi anche sopra la media. Quantitativamente, nel complesso, sarà una vendemmia sicuramente più produttiva dell'anno scorso, continua Malison. A livello di qualità, per il momento le uve sono sane, tutto dipenderà dalle prossime 2-3 settimane. La vendemmia probabilmente inizierà subito dopo Ferragosto per alcuni vigneti che anticipano, continua Malison, come vigneti giovani o su alcune varietà precoci come Pinot Grigio, Chardonnay e Pinot Nero. Ciò che accomuna gli operatori, segnala Confagricoltura Nazionale, è la preoccupazione per un mercato freddo con costi di produzione in aumento che incideranno sul prezzo finale e problemi di smaltimento delle giacenze. Dovrebbe invece confermarsi in salute l'export. Già nel 2023 il Friuli Venezia Giulia si attestava tra le poche regioni con il segno positivo rispetto al 2022. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Inaugurato a Trieste il Centro per le Famiglie, che si trova in via Rossetti 27, un nuovo punto di riferimento dedicato all'infanzia, all'adolescenza e ai genitori di ragazze e ragazzi. Sentiamo di che cosa si tratta dall'assessore alle politiche sociali del Comune di Trieste, Massimo Tognolli. Nasce dal nostro desiderio di dedicare sempre più attenzione alle famiglie. La famiglia è il cuore, è la cellula fondamentale della nostra società, quindi abbiamo creato questo spazio per fornire alle famiglie un luogo dove potersi sentire accolte, ascoltate e anche supportate. I nostri servizi includono quindi consulenze di carattere socio-educativo, attività di supporto educativo, di supporto scolastico, interventi anche di doposcuola, corsi di formazione per genitori e molte altre attività. Sappiamo che essere genitori è una delle sfide più grandi ed ecco perché vogliamo dare supporto alla genitorialità, ma anche una delle esperienze più gratificanti della nostra vita. Per questa ragione l'obiettivo che abbiamo è quello di fornire risorse e anche strumenti che possano aiutare i genitori a crescere i propri figli in un ambiente che sia quanto più possibile sereno e anche stimolante. È universale, si rivolge a tutte le famiglie che ovviamente si trovano in situazioni di fragilità o di marginalità, come ahimè sempre più spesso capita, di natura sociale. Scoperti da un pescatore locale al largo della riserva naturale della Foce dell'Isonzo, i resti di un convoglio di 4 imbarcazioni in ferro della misura di 20 metri per 6,5, risalenti ai primi del 1900, che si trovano ancora in asse tra loro. Si tratta di relitti di chiatte per il trasporto di materiali utilizzate come supporto logistico alle batterie italiane dislocate sulla Foce dell'Isonzo nel periodo della Prima Guerra Mondiale. È verosimile, hanno fatto sapere i carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Udine, che con la ritirata di Caporetto nell'ottobre del 1917 siano state fatte affondare in quella posizione mentre erano alla fonda per non farle cadere nelle mani del nemico durante le fasi di ripiegamento delle truppe. Il ritrovamento potrebbe permettere di scrivere un altro tassello nella storia che ha riguardato le battaglie dell'Isonzo. Assieme alla soprintendenza del Friuli Venezia Giulia, il nucleo subacquei di Genova e l'Università di Udine, i carabinieri hanno proceduto anche al monitoraggio di un'imbarcazione risalente al III secolo a.C., rinvenuta alcuni anni fa a 7 miglia al largo di Grado, a 19 metri di profondità, sulla quale a partire dal 2012 è stato applicato un sistema metallico modulare per consentire la valorizzazione e la protezione di questo bene sommerso. Udine, bilancio dell'attività della polizia locale nel quartiere di Borgo Stazione, da metà giugno identificate 400 persone, un arresto grazie all'estensione degli orari di attività e all'aumento degli uomini impegnati nei controlli, i servizi extra assieme alla presenza degli street tutor in centro sono confermati fino a settembre. Il comando della Polizia Locale di Udine conferma il suo impegno costante nel mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico a Borgo Stazione, commenta l'assessore alla Polizia Locale Rosy Toffano. I numeri delle operazioni condotte, sia di controllo che di eventuale sanzione, dimostrano l'efficacia del potenziamento dei controlli, mirato a contrastare le attività illecite e a garantire il rispetto delle norme. Grazie a queste misure è stato possibile ridurre situazioni di degrado e migliorare la vivibilità del quartiere, assicurando un ambiente più sicuro per tutti i cittadini. Nel periodo in esame sono stati effettuati 142 posti di controllo. La presenza costante e il monitoraggio attivo hanno permesso di intervenire in maniera tempestiva su diverse situazioni critiche. Incidente in montagna questa mattina a Tolmezzo, sulla ferrata in località Betania. Una donna carnica che era sulla ferrata in compagnia della figlia minorenne è stata travolta da sassi caduti dall'alto ed è caduta fino a terra. Si trovava sulla prima lunghezza della ferrata stessa. Sul posto due soccorritori della stazione di Forni e Voltri del soccorso alpino hanno raggiunto la donna poco prima dell'elisoccorso regionale. La donna, che ha riportato una frattura esposta alla caviglia e altri traumi, è stata stabilizzata, imbarellata e imbarcata in elicottero per essere portata in ospedale. Sono stati visitati dai sanitari del Burlo Garofolo per una valutazione delle loro condizioni generali, che non sembrano destare particolari preoccupazioni. I due bimbi palestinesi giunti ieri sera all'ospedale infantile triestino dalla striscia di Gaza. Si tratta di due bambini di 1 anno e 4 anni d'età, trasferiti assieme ad altri 14 minori palestinesi che necessitano di cure urgenti per malattie croniche che non possono essere trattate in contesto bellico. Ora gli spettacoli. Il pubblico del Teatro Verdi di Trieste ha accolto con entusiasmo la Contessa Maritza, operetta in tre atti che proprio quest'anno compie 100 anni dal debutto al Teatro di Vienna. La Vienna della tradizione, con la canzone popolare magiara e zigana dell'Ungheria. È la Contessa Maritza, operetta in tre atti, che ha entusiasmato il pubblico del Teatro Lirico Verdi di Trieste ieri sera, così come 100 anni fa, quando la Contessa Maritza fece il suo debutto al Teatro dell'Opera di Vienna. Sul palco del Verdi Anna Petricevic nei panni della Contessa e l'inossidabile Ariella Reggio nella parte della Principessa Elisabetta. Regia, scene e costumi sono di Andrea Binetti, anche sul palco nel ruolo del Barone. Sin dal debutto la Contessa Maritza ha sempre conquistato il favore del pubblico dall'Europa fino a Broadway, grazie alla capacità del compositore Kalman di tradurre in musica la cultura e l'atmosfera dell'impero asburgico. Toscanini ne ammirava la raffinata orchestrazione, era l'operetta più amata dal pubblico del primo dopoguerra. Oggi è raro trovarla in cartellone, a dirigerla la giovane direttrice d'orchestra Stéphanie Pradurou dalla Valle d'Aosta. Lo spettacolo, in collaborazione con l'Associazione Internazionale dell'Operetta, sarà replicato domani, sabato 10 agosto alle 20:30 e domenica 11 alle 18. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. E siamo allo sport calcio. Primo impegno ufficiale oggi in Coppa Italia per l'Udinese, che alle 18:30 affronta allo stadio Friuli l'Avellino. Non vedo l'ora di iniziare, ha detto il nuovo tecnico bianconero Costa Runjajić. Sentiamolo. Yeah, I'm excited. I'm looking forward finally. Naturalmente molto, molto entusiasta. Sarà una partita molto importante per lui e per la squadra, perché si gioca davanti ai nostri tifosi. È chiaro che sarà una partita di rilievo, e però finalmente inizia la stagione, finalmente iniziano le partite ufficiali. The season starts. As you said, few players arrived very late. Alcuni giocatori sono arrivati davvero da pochissimo tempo e quindi è probabile che siano soltanto in panchina. Chiaramente non inizieranno dal primo minuto. Unfortunately, he's still not available. Allora, Christensen non è ancora a disposizione, ma sta facendo grandissimi progressi giorno dopo giorno, ha ricominciato a lavorare sul campo, lui si portava dietro un fastidio muscolare dal termine della passata stagione e quindi non ha nessun senso e non si prenderanno rischi per la partita di domani, anche se sta molto bene, domani non sarà neanche in panchina. Even not on the bench. For sure, we are not at the end of... Chiaramente siamo solo all'inizio del processo e sicuramente le partite ufficiali iniziare da domani ci daranno kind of feedback. I primi feedback. If you have more possession, you have also kind of more risk to lose the ball in some... Sicuramente giocando in questa maniera più propositiva, controllando il pallone, c'è il rischio che perdi palla e puoi subire più contrattacchi, ma questo era stato messo in conto, ma chiaramente ci deve essere l'idea di gestire meglio il pallone. And less mistakes. Ora le Olimpiadi, oggi gareggia l'ultima delle rappresentanti regionali ai Giochi di Parigi, si tratta di Antilai Sandrini, 26enne livornese, residente ad Aviano, impegnata nella breakdance. La competizione prevede sfide a due fra le atlete, la Sandrini è inserita nel gruppo C di qualificazione, primo match alle 16:20, sentiamola in questa intervista. Antilai, carichissima, abbiamo visto adesso un po' di training, allora che effetto fa qui a Place de la Concorde? È un gran bel effetto, i colori mi piacciono tantissimo, la location pure, è una bellissima giornata, sento delle belle vibrazioni insomma. Ecco, vi conoscete tutti, siete un po' una famiglia qui? Sì, sì, assolutamente, sono super contenta che siamo tutti amici, comunque ci conosciamo da tantissimi anni, quindi è come sentirsi un po' a casa, dai. Ecco, che energia hai adesso a venire qui? Anche forse un po' di tensione magari? Ma oggi in realtà non tanta, proprio perché non è la competizione, avevo un po' più di ansia perché dovevo ancora vedere il posto dell'evento, però in realtà mi piace tantissimo, quindi ora sono tranquilla. Sei la prima italiana di questo sport, è una bella soddisfazione. Assolutamente sì, spero di dare il massimo su quel palco e spero anche di piacere insomma alle persone. Il nostro giornale radio si chiude qui da Lorenzo Gerlinzone e Francesca Vigori con la collaborazione tecnica di Andrea Fontanot e Cristina Palselli in redazione. Grazie per essere stati con noi, buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.